Abbiamo fame di capire tutto quello che succede, di sapere anche perché. Buttiamo via camion di cibo, basterebbe un po' di riso per chi non ha da mangiare. Diamo miliardi ai calciatori lamentandoci che i giovani non vogliono studiare. Accarezziamo più il telefono di figli e genitori e poi pensiamo che è normale. Ci lamentiamo della musica ma i soldi per i dischi non li spende più nessuno. E siamo tutti quanti liberi di fare tutto quello che però dice qualcuno. Bambini e bambini coi telefonini abbandonati dentro i passeggini, bravissimi a giocare con i nostri difetti. Abbiamo perso la speranza, la moneta, la pazienza, il buon umore ed il rispetto. Abbiamo tanta fantasia ma non troviamo mai rimedio ai nostri peggiori difetti. Siamo chilometri di braccia che si sfiorano ma in faccia non si guarda più nessuno. Abbiamo trasformato il mondo in una grande pattumiera ma vorremmo mangiar sano. Abbiamo aperto le finestre perché il sole ci baciasse ed è arrivato un temporale. Abbiamo perso la speranza di vedere meno calcio e non restare lì a guardare. Bambine, bambini, dei passeggini, rincoglioniti dai telefonini, bravissimi a giocare con i nostri difetti. E non siamo mica stupidi, siamo chilometri e anni luce da qui. Facile. Bambine e bambini coi telefonini abbandonati dentro i passeggini, bravissimi a giocare con i nostri difetti. Un giorno ho chiesto a una bambina: ma tu che tempo preferisci tra passato, presente e futuro? E lei mi ha risposto: il presente. In fondo il futuro è soltanto il presente più un secondo. E poi mi ha detto: adesso te la faccio io una domanda. Spiegami perché i vecchi si chiamano vecchi e i bambini non si chiamano nuovi. Siamo a chilometri di braccia che si sfiorano ma in faccia non si guarda più nessuno. Abbiamo troppa fantasia per non trovare dei rimedi a questo mondo così strano. Bambini, bambini, coi telefonini abbandonati dentro i passeggini, bravissimi a giocare con i nostri difetti. Che più dei figli ci teniamo stretti, che più dei figli ci teniamo stretti, che più dei figli ci teniamo stretti.